140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola. Gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco la protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Sony Music, Milano. Torna con 15 brani inediti una delle voci più amate. A 3 anni da Senza Paura, Oro Nero è il nuovo album di Giorgia. Mi hanno chiesto se ha ancora senso fare il senso ancora dell'album, se effettivamente adesso abbiamo anche altre strade, no? Uno può anche ogni tanto fare una canzone perché gli gira quella canzone, gli arriva e metti caso che poi piaccia anche alla gente, perché no? Però invece l'album è veramente un racconto, un po' come era, un po' ai vecchi tempi, però effettivamente secondo me anche nell'ascolto moderno il racconto vale sempre, e al di là del singolo e il non singolo. È una forzatura trovare dei fili conduttori, però c'è tanta speranza nel cambiamento, nelle sorprese, in qualcosa che sta per arrivare. Io l'ho visto, l'ho sentito in tanti pezzi, è così? Sì, è così. Io ho scritto nei passati 2 anni, mentre succedevano cose un po' a tutti, alla collettività, cose brutte, cose difficili. Non è un mistero che questo sia un tempo complicato da vivere sotto tanti punti di vista e un po' per tutti. Ho voluto tenere questa, un po' raccontare con la mia visione di donna 45enne questa sensazione, questa atmosfera, però mi sono anche concessa la speranza, perché io all'essere umano ci credo sempre e credo che si possa, con un piccolo cambiamento in sé, con una piccola presa di coscienza di sé, si possa cambiare poi tutto il mare, tutte le gocce del mare. Un piccolo cambiamento di una di queste gocce genera a livello universale il vero cambiamento, e ci voglio ancora credere, e secondo me è proprio nei tempi difficili poi succede questo. Una di me. Parlano di te che non hai regole, la gente parla quando non ascolta neanche se. Parlano di me che non mi amo davvero, ma una carezza sul mio viso è il mio primo pensiero. Parlano di noi e abbiamo tutti contro, ma tu sei come me, so che danza, non pensare che c'è stato preso il meglio già. E quindi tu con chi parli? Perché parli con i tuoi nostri coetanei, ma negli ultimi anni hai parlato anche tanto ai ragazzi molto giovani che magari ti hanno sentito in radio, hanno sentito. A chi lo dici? A chi dici questa cosa? Sì, molto anche a loro, perché poi è successa questa cosa bellissima, magica, che non so neanche io perché, mi ritrovo ai concerti o comunque in contatto proprio con i ragazzini. E a loro anche tanto bisogna parlare, dando dei modelli diversi, dei riferimenti diversi. È così che si cambia una generazione, e c'è bisogno che cresca su una generazione diversa da come siamo stati fino adesso. È l'unico modo per sperare che poi le cose veramente migliorino. E non pensare che ci hanno già preso il meglio, perché il meglio magari deve ancora venire anche quando non sei più giovanissimo e quando pensi che invece già ti hanno preso le cose migliori. Ma se ti senti ogni tanto un po' Queen of the Night, perché io nelle intenzioni sempre Queen of the Night, poi verso le 9 mi viene voglia di divano. Tu? Allora, io vengo da un passato di notte mi attivo. Do il meglio di me. È la mattina che sono una schifezza, però da quando c'ho un figlio che va a scuola, io le notti ormai me le devo proprio autocensurare, quindi dovevo dire che ero un tempo la regina della notte, adesso mi piacerebbe, lo sono nella sostanza, ma poi in realtà sono uno straccetto la mattina, ecco, questo è il risultato. Visto che hai citato tuo figlio, ho appena letto i ringraziamenti, perché ho appena messo le mani sul prodotto fisico. A te Manuel, grazie. Giustamente, a nostro figlio Samuel, perché se magari un giorno gli capiterà questo disco tra le mani, sappia, se già non lo saprà, che è un enorme privilegio vederlo crescere così stupendo com'è. Cioè, è il valore del lavoro, il valore dell'arte. Che cosa vuoi insegnargli con questo ringraziamento? Il valore del lavoro, sì, perché lui poi mi vede, non stiamo tanto insieme perché facendo questo lavoro ho la fortuna di avere dei grandi periodi in cui siamo a contatto, poi quelli in cui invece ci separiamo, che io parto, che adesso insomma lui è grande, capisce molte più cose, le elabora in un altro modo, ci manchiamo quando siamo a distanza e quindi dare un po' anche il significato a questa mamma che ogni tanto prende e va, cioè fargli capire che comunque lui è sempre... È il primo pensiero sempre ed è il centro ormai di tutto perché noi siamo due genitori in balia di un seienne che decide tutto lui, fa tutto lui. Però è anche il fatto che veramente veder crescere una persona nuova è un grande privilegio. E poi la faccenda della maternità, insomma, mi rendo conto, io l'ho aspettato tanto e soffrivo molto quando non c'era, ma poi non tutti devono necessariamente. Per qualcuno va bene come esperienza, ma non è un'esperienza che devono fare tutti, cioè ci tengo perché poi penso anche alle donne che non hanno figli, questa cosa, io mi ricordo come stavo quando sentivo quelle che parlavano dei figli e io non, a me non mi veniva, capito? Soffrivo proprio, però ho capito che comunque nella vita di ognuno c'è qualcosa che ti genera poi possibilità di capire altro. Per me lui è il fatto di essere diventata mamma ha avuto una grandissima importanza e quindi... In qualche modo farglielo arrivare. Poi a lui non gliene frega niente perché io gli ho anche detto: vedi, guarda, ti ho scritto questa cosa nel disco, perché tanto quando gli capiterà sto disco in mano, quello lo vedrà e dirà: oddio, questa è mia madre, lo metterà da parte. E lui mi ha guardato un po', sì, un pochino emozionato, poi ha detto: vabbè, ora giochiamo. Quindi poi è tutto relativo, no? Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Giorgia. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.